Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nei panni del dottor Watson, lo scrittore americano Lauren Estleman immagina un incontro improbabile tra Sherlock Holmes e il dottor Jekyll. L'ha fatto prima al cinema e ci è riuscito meglio, intrecciando fra loro le storie della mitologia e i protagonisti dell'immaginario collettivo e facendo risaltare la formula vincente della scrittura di genere. Oppure mettendo a confronto, in un gioco spesso esilarante, Dracula e Frankenstein, Maciste e il vampiro. Dei grandi eroi scaturiti dall'industria culturale ottocentesca è Sherlock Holmes, quello che più degli altri ha catturato da sempre la curiosità dei lettori. Le associazioni di cultori holmesiani sparse in tutto il mondo dedicano un'attenzione maniacale e divertita ai casi usciti dalla fantasia di Conan Doyle. Il perfetto ingranaggio narrativo giocato sulla serialità, il fascino tranquillizzante di una detection geniale che si cala nei misteri della metropoli per poi ristabilire l'ordine, una vita privata enigmatica e ridotta all'essenziale, fanno dell'investigatore privato di Baker Street una figura assai meno inquietante degli altri eroi suoi coetanei e dunque personaggio di cui è facile costruire all'infinito repliche, varianti, parodie. L'inizio di questo nuovo genere fu segnato nel 1976 da La soluzione al 7% di Nicholas Meyer, che immaginando l'incontro di Sigmund Freud con Holmes per curare la dipendenza da cocaina di quest'ultimo, costruiva nel racconto un divertito gioco sull'analogia del processo deduttivo come base dell'interpretazione del reale e dell'inconscio. D'altronde i pastiche, costruiti sull'incontro di personaggi reali e personaggi letterari, hanno ormai conquistato una nicchia di consumo nell'editoria anglosassone. Dalle varianti della storia ai ritratti immaginari, dai sequel impossibili ai risvolti nascosti delle vite di letterari, artisti, pensatori, esploratori. Un intero mondo riscritto, variegato e senza ombre. Nessuna sorpresa, dunque, se dopo Sherlock Holmes contro Dracula, lo scrittore americano Lauren D. Eastleman abbia voluto piegare alle regole oggettive della detection l'altro grande mito di fine secolo, colui che nel terribile racconto di Stevenson si sdoppia nelle figure di Jekyll e Hyde. Questi creatori di pastiche si prendono terribilmente sul serio e vogliono essere sicuri che il lettore abbia capito bene. È tutto un gioco, un travestimento, forse perfino una mise en abîme, ti dicono ammiccanti. È la cornice nella cornice, ti ripetono felici. E dunque all'introduzione del curatore italiano, che finge di riportare una memoria autografa in cui il prozio Eugenio racconta del suo incontro con Stevenson nei mari del sud, fa seguito l'antefatto di Eastleman, che narra anche lui l'avventura di un manoscritto. Infine, è la volta del dottor Watson, che scrivendo molti anni dopo la conclusione delle avventure di Holmes, rivela come si è deciso a riportare alla luce il caso del dottor Jekyll. Solo dopo aver pagato questi balzelli alle regole dell'apocrifo holmesiano, il lettore può finalmente sprofondare nella storia e godersi lo scontro fra l'intelligenza razionale di Holmes e quella diabolica di Jekyll. Eastleman ha grande mestiere ed è dunque innegabile che tutta la parte del racconto che ha a che vedere con i due inquilini di Baker Street sia una replica perfetta delle convenzioni narrative originali. L'ambientazione, i personaggi di contorno, i tic di Holmes, l'ottusità di Watson, lo specchio così ricostruito rimanda ancora una volta al fascino innegabile che da più di 100 anni sprigiona dalle pagine di Conan Doyle. Meno felice, naturalmente, l'incontro con l'invenzione stevensoniana, svuotato della carica eversiva e dolorosa che lo aveva portato fin da giovanissimo a fare i conti con una profonda duplicità della vita, Jekyll è qui un semplice dispositivo, marionetta ubbidiente alla legge del racconto di mistero e allo scioglimento finale. Peccato che nel tentativo di arricchire, l'apocrifo Eastleman abbia pensato di inserire, seppur marginalmente, proprio ciò che nel romanzo rendeva sublime la solitudine di Jekyll, di Utterson e degli altri abitanti della metropoli, e cioè l'assenza della figura femminile. In una corsa fino a Edimburgo, Holmes e Watson si illuderanno di rintracciare in una prostituta un possibile anello mancante per sciogliere il mistero di Jekyll. Chissà cosa si inventerà Eastelman quando farà incontrare Holmes con il corso di Cuore di Tenebra o con Peter Pan. Dalle pagine del Domenicale, l'inserto culturale allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi, avete ascoltato la lettura della recensione di Benedetta Bini al libro di Lauren D. Eastelman, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Holmes, pubblicato dalla Gargoyle Books. Per la prima volta nella sua storia, la reggia di Versailles dedica una mostra al suo inquilino più illustre, Luigi XIV. Il 3 febbraio 1663 nessuno di loro poteva immaginare la parabola strepitosa di quel destino. In fondo erano soltanto la piccola accademia, verbivendoli di un politico potente e geniale, Colbert, a cui piaceva darsi le arie di mecenate. C'erano Chapelain, il poeta, gli abati Savin, Cassaigne e de Bourzé, e due uomini di lettere, Charpentier e Charles Perrault, sì, proprio lui, l'inventore di Pollicino e di Cappuccetto Rosso. Li aveva convocati a corte per bandire un verbo nuovo il giovane re, Luigi XIV, di cui si intravedevano le prime inequivoche meraviglie. Aveva deciso di eliminare la carica di primo ministro, ad esempio, e regnare solo, da re assoluto, assolutamente re. Ecco, quel giorno il sole cominciò a salire allo zenith, con questo straordinario, metodico, modernissimo piano di comunicazione. Bisognava costruire l'immagine del re, allestirne il testo e la messa in scena, coniugarne il culto al superlativo assoluto. Dalla danza alla pittura, la letteratura, la scultura, l'architettura, i giardini, le tappezzerie, la numismatica e perfino i giochi pirotecnici. Tutta questa alta oreficeria intellettuale doveva servire alla gloria del re. Le feste e l'etichetta? Per la sua gloria. L'urbanizzazione e i palazzi fastosi? Per la sua gloria. Perfino il suo risveglio e il suo pranzo? Per la gloria e ancora la gloria. Tutti i grandi dovevano essere arruolati in questa missione titanica, i primi ingegneri delle anime, devoti, ingegnosi, inesauribili. Lebrun, Girardin, Levaux, Molière, Lully, Pascal, Racine, La Fontaine, perfino il pettegolo Saint-Simon, ma con la sua prosa di diamante, e la marchesa de Sévigné. Tutti a scrivere, comporre, scolpire, dipingere, edificare per far risplendere il sole. Tutti per un'unica causa, la sua. Non era un genio quel sovrano che non ha mai pronunciato la frase per cui è rimasto famoso, lo Stato sono io, ma aveva un talento che diventerà tutto francese, quello della messa in scena. Per leggerne la gloria, ma anche scrutare il rovescio del palcoscenico, per fortuna di lucido marmo e non di cartapesta, bisogna visitare la mostra Luigi XIV, l'uomo e il re, al castello di Versailles, che si è aperta al pubblico martedì scorso e sarà visitabile fino al 7 febbraio. Con un gigantismo che non sarebbe dispiaciuto al padrone di casa. Sono 300 opere disposte su 1300 metri quadrati. Ci sono tutti gli apparati scenici di un destino accuratamente costruito. Persino la corazza regalatagli dalla Repubblica di Venezia. Il grande re era alto appena 1,68 m, ma anche oggetti e arredi privati, quelli del piccolo appartamento che riservava al suo gusto, talora assai più borghese. È una mostra che adesca, offrendoci l'anima più fonda e infrangibile della Francia, perché ci sono forse tempi in cui è stata più nobile, più virtuosa, più gloriosa, anche e soprattutto più giovane, ma mai è stata così bella come in quel Grand Siècle. Il trionfo di questa bellezza riempie ancora i cuori e l'orgoglio, più di 100 battaglie vinte. Quella di Luigi è la Francia nel suo stato di grazia, è lo scintillio del suo genio, il tempo della sua francité, ovvero del suo spirito. È così che vuole continuare a immaginarsi, nell'epoca in cui ottenne le sue frontiere eterne, guardate dalla cintura di ferro delle fortezze di Vauban, e in cui prese il comando della cultura universale, sostituendo l'Italia. L'Europa, oggi così riottosa e policentrica, soggiogata da quella luce, andava a scuola a Versailles e imparava la lingua di Molière, non quella invadente di Shakespeare. Che nostalgia! Nella mostra c'è un'immagine del re a 65 anni di impressionante e realistica decrepitezza. La barba non rasata, le gote segnate dal vaiolo, l'espressione corrucciata, la gloria si sfaceva torbidamente. 1 milione di francesi agonizzavano per la carestia, più che per le catombe della Prima Guerra Mondiale. Intanto l'Inghilterra inaugurava le due istituzioni che davano il via alla rivoluzione industriale, la Banca d'Inghilterra e il Consiglio di Commercio. Sul letto di morte, il gran re mormorò soddisfatto: «Io me ne vado, ma lo Stato resterà sempre. Aveva ragione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Domenico Quirico, Luigi XIV, e fu subito grandeur, dalla stampa del 20 ottobre.